Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Come molti pittori del suo tempo, Tiziano aveva creato una vera e propria attività imprenditoriale, avvalendosi di un consistente numero di collaboratori per riuscire a portare a termine il crescente numero di incarichi che riceveva dall'Italia e dall'estero. Un libro di recente pubblicazione offre una serie di spunti per orientarsi all'interno della complessa attività di bottega dell'artista veneziano. Tiziano, bottega di Tiziano, Tiziano e aiuti. Vorremmo capire meglio cosa significhino certi termini, che cosa si celi dietro i cartellini che leggiamo nelle sale dei musei. Crediamo di saperlo. Bottega di Tiziano è termine diminutivo. L'opera, pur chiaramente tizianesca, non ha le qualità che si riconoscono all'autore. Tiziano e aiuti indica che il dipinto non è interamente autografo. Si tratta, insomma, di termini limitativi, se non peggiorativi. Ma esiste l'autografia integrale cara ai connoisseur e al mercato? Esiste una bottega di Tiziano o piuttosto ne esistono diverse? La cosa non è così semplice e il libro è assai importante non solo per le notizie sovente inedite sui diversi collaboratori di Tiziano, ma per quanto vi si legge sul formarsi e il funzionamento delle botteghe. Il fatto che se ne scriva al plurale è già di per sé un dato assai significativo che coinvolge tempi, spazi, persone e aspetti differenti, pur rimanendone al centro la casa atelier di Biri Grande, non lontana dalle Fondamenta Nuove, dove Tiziano visse e operò per quasi mezzo secolo, durante il quale il laboratorio ebbe modo di mutare aspetto e composizione. Partiamo dall'aspetto più ovvio, il coinvolgimento familiare. Cosa abbastanza comune per gli artisti, ma singolarmente esteso nel tempo nel caso di Tiziano. Dal fratello Francesco al figlio Orazio, ai cugini Cesare e Marco, morto nel 1611, quasi 40 anni dopo la scomparsa del maestro. Del clan fanno parte, oltre ai parenti, alcuni fedelissimi come Girolamo di Tiziano e più tardi Valerio Zuccato e Emanuel Amberger, figlio del pittore che Tiziano aveva conosciuto ad Augusta, mentre aiuti, discepoli e collaboratori occasionali si succedevano per breve tempo. Tra questi molti stranieri, i neerlandesi von Kalkar e Sustris, i bavaresi Hans Mielich e Christoph Schwarz e lo stesso El Greco. Altro aspetto, lo spazio. I viaggi di Tiziano per incontrare l'imperatore ad Augusta nel 1548 e nel 1550-51 sono in questo senso particolarmente significativi perché qui, come più tardi a Madrid, nasceranno quelle che potremmo chiamare delle botteghe virtuali, botteghe di Tiziano senza Tiziano, ma suscitate o dal passaggio e della breve attività dell'artista in loco o dall'arrivo di opere sue fondamentali come quelle eseguite per Filippo II e per l'Escorial. Ad Augusta è raggiunto con alcuni collaboratori, non forse le sette bocche da sfamare di cui parla in una lettera, ma certo tre o quattro persone di cui si avvale sia per aiutarlo nella stesura, sia per replicare opere particolarmente richieste. I membri delle botteghe partecipavano all'opera del maestro in diversi modi, diretti e indiretti, terminando tele appena abbozzate, abbigliandole con panni e vestimenti, replicando temi e composizioni di opere di successo, moltiplicando i ritratti più ricercati, come quelli dei pontefici o dei sovrani, utilizzando e assemblando formule e schemi compositivi già sperimentati in opere destinate alla provincia prossima o lontana, come è il caso della celeberrima Assunta dei Frari, il cui modello è ripreso in Dalmazia, nel Polittico di Dubrovnik, o nel Feltrino, in quello di Lentiai. Significativa e in qualche modo rivelatrice è l'attività autonoma dei collaboratori che colonizzano con le loro opere intere aree come l'Avito Cadore, dove le richieste di pitture si intrecciano con i problemi di rendite fondiarie e di cariche. Qui le chiese di San Vito, di Venas, di Vinigo, di Perarolo, di Calalzo, di Pieve, di Nebbiù contano opere di Francesco, di Orazio, di Cesare e di Marco Vecellio. Dipingere per le comunità di Cadore è tuttavia altra cosa che lavorare per i committenti della dominante, altre le attese, altre le consuetudini, e i dipinti dei collaboratori di Tiziano sono qui ben diversi, spesso più arcaicizzanti, meno strutturati da quelli che gli stessi approntano per Venezia. Ciò non si deve alla volontà di adeguarsi ad abitudini e a voleri altri da quelli prevalenti in Laguna, ma anche alla mancanza di un progetto del quale Tiziano solo poteva concepire e controllare l'esecuzione. L'imporsi dei modelli tizianeschi in Europa è il prodotto di una quantità di fattori. La vasta produzione dell'officina, la grande diffusione attraverso le stampe, l'eccezionale autorità dei modelli che continuarono ad esercitare un richiamo ineludibile attraverso il tempo e lo spazio. Lo spiega, lo presenta, lo esemplifica questo imponente volume che intende restituire l'intero sistema operativo di Tiziano, impresa che implica tempi assai lunghi e coinvolge vari autori. Un libro importante, la cui realizzazione si deve al Centro Studi Tiziano e Cadore, benemerita istituzione che tra Boschi e Crode riesce a pubblicare una rivista di alto livello come Studi Tizianeschi e a portare avanti iniziative culturali che richiedono gran tempo e grande impegno. Avete ascoltato la lettura della recensione di Enrico Castelnuovo al libro Le botteghe di Tiziano, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Non sono ancora morta, dice Mia Martini nella sua ultima intervista, criticando l'atteggiamento di pubblico e stampa che la consideravano ormai una specie di reliquia per collezionisti. Rimasta inedita fino ad oggi, l'intervista è stata realizzata da Maurizio Gregorini nell'aprile 1995, un mese prima della scomparsa di Mimì. Vorrei essere apprezzata per quello che sono e non come un'artista strana, che canta e interpreta e alla cui sola voce la gente, senza prestare la giusta attenzione, attribuisce tutto. Mi pare di avere intorno solo pazzi, come se il pubblico, chi mi ama, mi vivesse e mi usasse come fossi una sorta di mito vivente, oggetto di un fanatismo che rasenta il razzismo. Sì, è vero, tutti mi vogliono, musicisti, discografici, produttori e chi sostiene di volermi bene. Ma sai, Maurizio, qual è l'eccentricità? Che i fan i miei dischi proprio non li acquistano, anzi, si offendono, si incazzano se incontrandomi per strada io non gliene faccio dono. Chissà, magari in Italia sono l'unica a subire questa sorte di estremismo assoluto. E stanne certo, accade anche con gli autori di canzoni. Ognuno di essi vuole scrivere per me secondo il suo modo intimo di intuire un impulso, di vedere o vivere una determinata sfera affettiva. La mia versatilità in musica e uno strampalato atteggiamento di amore nei suoi confronti il più delle volte sono stati oggetto di liti con i discografici, che mi hanno imposto un modello prescelto da loro e che gradiscono che io ricada solo in quel tipo di cliché in cui, ciecamente, continuano a percepirmi. Quando dicono che un certo tipo di canzone posso interpretarla solo io, mi viene una sorta di colpo apoplettico. Considero la loro una vera violenza sul mio vivere la canzone, al pari di un'attrice protagonista che ha però il dono della voce. Mi sottopongono pezzi con passaggi e virtuosismi incoerenti, tanto per sottolineare al pubblico che sono una cantante esperta. Oppure mi propongono brani d'amore, di pena, cretini e lacrimosi. Gli autori mi si presentano dicendo: ho scritto un pezzo stupendo che solo tu saprai rendere magnifico. E a quel punto la mazzata in testa m'arriva all'istante. Ma che, per caso, devo andare a salvare qualche bambino disadattato? Questi autori non arrivano proprio ad afferrare che quando credono di aver composto canzoni su misura per me, in realtà hanno partorito dei mostri che io subisco come veri soprusi psicologici. Come credi che il pubblico che ti segue da anni, adorandoti visceralmente, abbia reagito quando ti sei presentata nelle vesti di cantautrice, con un album tutto sommato mica semplice, intimista e insieme minimalista qual è Mimì? Che io sia una cantautrice fanno finta in tanti di non saperlo. Però qualche volta qualche giornalista lo ricorda. Strano, vero? Per ciò che concerne il mio pubblico, quel che più delle volte siamo soliti denominare fan agguerriti, che dire? Si tratta di persone che mi adorano, mi amano, ma in un modo che ho sempre contestato, come una specie di reliquia per collezionisti. Ma il fatto è che io non sono ancora morta. Siccome sanno, e ne sono più che certi, che con le mie intemperanze nei confronti dei discografici io sono a rischio di scomparsa continua, hanno l'ingenua tendenza a vivermi come una rarità. Ma io mi sono rotta. Non sono un cadavere io. Lo urlo ancora, con tutta la mia rabbia. Non sono morta. Mettetemi prima in una fossa. Poi fate ciò che più vi garba. La lezione di vita più importante che ti ricordi? La saggezza di Movie, la cagnetta con la quale ho condiviso gli anni più difficili della mia vita. Sai, non si possono portare per sempre pesi insopportabili e inutili. Le ossa iniziano a far male e i facchini costano. Movie mi ha insegnato che nella vita serve pochissimo. La mamma, che ero io per lei, la pappa, e se mi sbagliavo sugli orari vedessi quanto si incazzava, e poi la pallina tonda, perché nella vita il gioco è importante. Mi ha anche insegnato a vedere una casa in qualunque luogo andassimo. In ogni albergo che ci ospitava, lei arrivava, annusava e si sceglieva un posticino per sé. Cosa ti offende nella vita? Sono poche le cose che mi oltraggiano, ma la mancanza di rispetto, quella no. La vivo come una brutalità assurda. Io chiedo solamente di me, non ti scordar, ma l'uomo non capisce che cosa fa. Avete ascoltato alcuni passaggi dell'intervista a Mia Martini, realizzata nell'aprile 95 da Maurizio Gregorini. L'intervista è contenuta nel libro di Menico Caroli e Guido Arari, L'ultima occasione per vivere. Tea Editore, 287 pagine, 49 euro.